il cuore che ride in fiamme, nell'oscuro di una notte infame, di occhi vicini sopra diamanti e nasi schimesi, ciglia lontane, coi denti batti il tempo del sonno in un brivido di carne tesa, e luci tiepide note accennate coprono ore di tempi sospesi. E negli attimi di soccata attesa, nell'immobile gesto che porta a vedere, tendi le mani in un gesto strano di fiati intrecciati aspettando la resa. Il cuore colpisce piano con la forza della montagna, gli occhi si sgranano in nero di pece e tracciano solchi di scariche brune, e la mancanza si fa feroce nei ritmi stanchi delle promesse, non c'è spazio per le parole in mille battiti di cianere. Quegli attimi di sfocata attesa, nella pioggia lenta che corrode i pensieri, urla la notte i suoi canti di cenere, negli occhi bianchi